בלו טיים. בלו טיים לייב. בלו טיים. לייב. Allora, buonasera a tutti, sono le 21.07 minuti di questo giovedì caldo, afoso di luglio qui a Blu Radio Veneto con Agostino Spolaore e con Maurizio Calzavara, che tra l'altro lo saluto caramente, grazie Maurizio anche della collaborazione di questa sera tecnica. Sì, ci sono, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Abbiamo avuto un inconveniente che può capitare, insomma, però le corde delle chitarre si sa come sono, a volte si rompono, quindi abbiamo dovuto aggiustare al volo, ma ringraziamo assolutamente Tolo Marton per essere qui questa sera. Ciao Tolo, benvenuto a Blu Radio Veneto. Ciao Blu Radio Veneto, ciao. Parlami vicino al microfono, Tolo, per cortesia. Non devo avvicinare con la sedia. Se no parla con l'altro, è lo stesso. No, va bene, eccoci qua. Bene così? Sì, ti alzo un po' la voce. Allora, prima di cominciare questa carrellata con questo grandissimo chitarrista che ormai insomma è conosciuto in tutto il mondo, vi voglio ricordare i nostri dati tecnici, tra virgolette, cioè il numero telefonico in studio, lo 049 875 6423, mentre per i vostri sms il 346 23 20 033. Le nostre frequenze 88 e 700 e 94 e 600 MHz in modulazione di frequenza se ci ascoltate tramite la radio. Se invece volete ascoltarci in streaming, vi ricordo il nostro sito, cioè www.bluradioveneto.it, lì ci potete ascoltare assolutamente in diretta 24 ore su 24. Abbiamo le nostre pagine su Facebook, cioè semplicemente Blu Radio Veneto, una, l'altra è Blu Radio Veneto Rock Wave, che come sapete ormai l'avete imparato a memoria, gestita dal nostro direttore artistico Alberto Prisco, che ovviamente salutiamo. Credo di aver detto tutto, Maurizio, lascio a te il compito di presentare una tua, come dire, una tua stella, un personaggio che io ho una certa età e Tolo anch'io. È un sacco di tempo che suona, chiaramente, e siamo molto onorati stasera di ospitare Tolo. Una cosa tu hai detto giustamente, io avevo scritto nella recensione, si parla di blues, ma non è propriamente, non si parla solo di blues. Tu gli hai detto in una bella dichiarazione, blues, un termine che riguardo al sottoscritto continua ad essere adoperato troppe volte e la maggior parte dei quali è a sproposito. È vero, Tolo? Ah, è verissimo. Sono tantissimi anni che... Perché ti hanno identificato come musicista blues? A parte che proprio blues. Partire con questo argomento... No, in generale. Come dargli ancora più importanza io. Comunque, allora, il blues è una musica, una musica importantissima, dalla quale non si prescinde. È difficile prescindere da questo, questo genere di musica, che è stato creato, inventato dai neri americani. Ancora un secolo fa, certo. Quasi. Comunque, per tutti i chitarristi e musicisti moderni, tutti si sono ispirati al blues, no? A partire dagli anni 50, e anch'io mi sono ispirato al blues come tutti, però questo avveniva negli anni 70, e quando per esempio in Italia non era un genere molto popolare, era di nicchia, era molto di nicchia, assolutamente di nicchia, era anche coraggioso, certo. Andare controcorrente e suonare blues. Adesso io ho fatto un percorso nella mia vita musicale molto vario, i miei interessi e i miei gusti musicali mi hanno portato ad ascoltare tante cose diverse, certo. E una di queste è il blues. Una di queste, esattamente. E qui ci sono tante cose da dire, ma una di queste è che la gente deve sempre etichettare i musicisti. Sì, per cui qual è la parola più comoda per etichettare? Etichettare Tolo Marton è musicista blues. Perché negli anni 70 suonavo più blues di quello che ho fatto dopo, perché era in quel momento là, era quello il momento del blues per me, e che avevo cominciato suonando la chitarra, il beat, ho fatto il rock, ho fatto i Beatles, ho fatto i Rolling Stones, ho suonato eccetera eccetera. Hai fatto poi tutto, ovviamente mi sono avvicinato al blues, quello vero, uh-huh. E poi da lì ho continuato per altri percorsi, certo. Il mio primo disco si chiamava The Blues Won't Go Away, e non era un disco di blues, era solo un verso di un brano di una canzone, no? Perfetto. Questo mi suonava bene, maledetta quella volta l'ho messo il titolo Blues Won't Go Away. Cioè, lo so, è semplice identificare, fare le etichette, perché le etichette sono più comode. Sì, però così. Le etichette sono scomode per chi poi se le sente, se le tiene addosso, perché oltre a essere incompleto è anche riduttivo, certo. Ad esempio Io suono nel repertorio mio, suono per esempio un medley dedicato a Ennio Morricone. Perfetto. Ecco, vorrei vedere un bluesman che suona Ennio Morricone. Cioè, sì, i bluesman non suonano queste cose qui. Ma ripeto, è solo incompleto. Sì, quando poi ti chiamano sempre il blues, la chitarra blues, eccetera, allora mi girano anche, capito? Perché sì. Ho detto, ma come? Sì, beh, è vero. E poi c'è un sacco di gente, tra l'altro, a cui il blues non piace. È vero. E quindi se ti etichettano con genere, ti precludi anche l'ascolto di altre persone che magari... se non sono interessate andare a sentire uno che viene etichettato così, perché sei, basta, chiudiamo l'argomento. No, era solo per chiaramente il blues è solamente un punto, uno di tanti punti, dei tanti, sì, generi, dei tanti episodi musicali che hai attraversato. Io ho ascoltato la musica classica, ho ascoltato il country, ho ascoltato un po' di jazz, la musica melodica, il rock and roll, il rock il progressivo, cioè. Sì. Hai fatto un po' di tutto, ricordiamo che tu hai inciso anche qualcosa con le Orme, sì, molti anni, sì, fa, sì, solo, sì, Smoke Magica, sì. Però hai inciso un album prog, tutto sommato, cosa dici, 1975? 75, sì. Esattamente, ma tu ami, non ami, chiaramente il blues è un genere, però passi da stimare personaggi come Joni Mitchell a stimare personaggi come Rolly Gallagher, quindi... tra il blues e il rock, chiaramente, o la musica, sì, d'autore. Di solito io do un nome, un titolo a, così, al genere che faccio. Così, per dirlo in due parole, anche se non è, anche questo non è completo, perché, però per farsi un'idea, classic rock. Ecco, ti hanno etichettato, se mi è consentito, come classic rock, ma non è una brutta etichetta, è un classic rock, vuol dire tutto. No, mi etichetto io come classic rock. Perfetto. Perché se devo usare un'etichetta, allora dico classic rock, certo, che, è, certo, che è quella musica che è diventato un classico, cioè che va dalla West Coast ai Beatles, ai Cream, ecco, ai Led Zeppelin, a proposito di Cream, ai Jimi Hendrix. Apriamo un momento, una parentesi, a proposito di Cream, ne hai suonati, Cream. Non hai suonato Gary Clapton, ma con gli altri due sì, però. Sì, ho suonato con tutti Ginger e due. Baker? Sì. È capitato, è uno delle tante tue... di tuoi tanti coinvolgimenti, ne hai fatti tanti coinvolgimenti. Sì, sì, ma non ho mai dato molta importanza a queste cose, cioè al fatto di suonare con dei musicisti importanti, per due ragioni. Uno, perché penso che uno deve camminare con le proprie gambe. Certamente, giusto. Due, perché i musicisti importanti, se uno è bravo, riesce a suonarci, bravo nel senso che è bravo a fare un certo tipo di muoversi in un certo modo, può suonare con i musicisti, certo, importanti, li va a cercare e poi c'è tutta una serie di mosse per poter, se uno è capace di farlo. Io non mi reputo bravo in questo tipo di cose, non so vendermi, non so tu sai suonare e basta, ma io faccio musica e basta. Per cui quelle volte che mi è successo di suonare e collaborare con musicisti anche leggendari, guarda, anche ultimamente quello di Deep Purple, certo, ho suonato con tre elementi di Deep Purple. È successo perché sono stato chiamato. Ma che c'era un filifra di voli musicalmente dopo parlando. Si è creato un... però non ho mai neanche cercato, perché non sono capace di andare a chiedere, dai, suoniamo assieme. Ah, capito. Non sono il tipo di... Quando capita. Se capita, volentieri. Volentieri, è una bella soddisfazione. Vogliamo sentire già qualcosa di tuo, Tolo? Sì. Sì. Tu hai scelto I Am Going Home, che è da un disco del 1999, Colors and Notes, mi pare. Che non si trova più, perché adesso è fuori catalogo. Sì, purtroppo. Sì, abbiamo una selezione di musiche stasera che appositamente vorrei farle sentire alcune, perché proprio non strono neanche più i dischi, per cui questa è una di quelle. I Am Going Home è una canzone, una ballata melodica che ho scritto parecchio tempo fa. E l'ascoltiamo. L'ascoltiamo, sì. High above the ocean, in a homebound plane. I've got the notion things are just the same. Nothing new with me. Play the same old game. How is it gonna be? I wanna hear the story of living on the road. Search for fame and glory. How the music flows. Everything I know, everywhere I've been, and what I've got to show. I'm going home to everything I know. I'm going home to everyone I know. La tua parte melodica, Tolo. Sì. Allora, ma a te però piacciono le ballate, perché non è la prima che fai. A me piace la musica. Quando, la musica è come la vita. La vita è fatta di tanti momenti. C'è il momento brutto, il momento rilassato, il momento di cattiveria, di energia. E così è la musica. Per cui a me piace suonare un po' di tutto, anche perché per me la musica è vita. Questo brano qua, I'm Going Home, che poteva essere un singolone strepitoso. Questo potrebbe anche sì. Un singolone, ma un singolone nel senso positivo, non negativo, sì, assolutamente. Sì, no, ma io lo a me le canzoni vengono in maniera molto spontanea, no? A volte viene una cosa così che effettivamente potrebbe, penso, avere anche qualche velleità commerciale, ma il bello è di sto brano qua, io l'ho scritto nel 1984-85, poi lo registrai su disco per la primissima volta nel 99. No, 99, appunto, sì. 98, perché sì. Poi uscì nel 99. E ero in America allora. E, tra l'altro c'è una fisarmonica che è suonata da Ponzi Bon, che è un grande fisarmonicista texano. Sì. E, comunque, un po' di anni fa ho messo questo brano online in un sito inglese. Così, dove le persone, chiunque poteva mettere le proprie recensioni, i propri giudizi. No? Io per curiosità ho messo sto pezzo. Anche questo brano. E c'è stato uno che ha scritto in inglese, ha detto: ma dove vuoi andare con questo, imitando James Blunt? Ah, sì. James Blunt. E io non sapevo chi era James Blunt. Che dopo mi sono informato, è un cantautore inglese avuto che effettivamente canta con questo, come io un po' ho cantato con questa voce un po' così. È vero. Allora io volevo rispondergli a questo qua, no? A dirgli: guarda che io sta canzone, cioè, quando l'ho fatta e l'ho registrata, non esisteva James Blunt. Assolutamente, ma molti anni prima. Sì. Solo che in questo sito non potevi rispondere. Ah, ho capito. Cioè, mangiarsela. Sì, troppo forte, vabbè. Beh, interessante. Tu hai parlato prima che hai cominciato sentendo Help dei Beatles, 1965, è quello il discorso. Ha cominciato a suonare la chitarra, sì. Sentendo Help dei Beatles. Perché Help dei Beatles e non qualcosa d'altro? Ma perché, per coincidenza, mio fratello, che ha più di 2 anni più di me, portò a casa il disco di Help. E te l'ho fatto sentire un sacco di volte. Dischi, così, non so... con questo arpeggio di chitarra fantastico. E sì, cioè io sono sempre stato attratto dai suoni, dalle note, dalla musica, fin da quando avevo 6-7 anni, quando eravamo negli anni 50 ancora. E volevo suonare il pianoforte, avrei voluto studiare la musica classica, suonare il pianoforte e diventare un pianista classico. Sì, quello era il mio sogno, però non è stato possibile. Pianoforte non era facilmente reperibile, cioè non era facile avere un pianoforte in casa. Quando ho avuto 14 anni ho trovato una chitarra a casa di mia sorella, mio cognato me l'ha prestata, una chitarra classica che era molto più trasportabile, e lì ho cominciato a suonare la chitarra. Ho rinunciato alla musica classica per quello che era in quel momento, era proprio la cosa più che piaceva a tutti i giovani, cioè la musica beat, i Beatles, ma anche gli italiani, l'Equipe 84, i Rocks, eccetera, eccetera. Quindi il beat, beat italiano, assolutamente il beat. I nostri anni, Maurizio. Perché secondo me, io non so se sei d'accordo, tu sei un musicista, posso farti questa domanda? Sì. Secondo me il principe, ovvero sia Bandelli, era un grande innovatore musicalmente parlando. È stato quello che ha portato Maurizio Vandelli? È stato quello che ha portato il sitar, è stato il primo in Italia a portare il sitar nell'Equipe stesso. C'è un famoso album Dr. Jekyll e Mr. Hyde che ha tutti degli giri onirici. Ma bisogna pensare che allora, come adesso, in Italia si andava a ruota ascoltando la musica inglese, la musica esattamente americana. Sentiva Radio Lussemburgo attraverso c'è chi aveva le antenne più puntate. E i gruppi beat, infatti, in Italia facevano dei brani che erano molto spesso delle cover, che nessuno sapeva che erano cover, ed erano belle perché erano belle le canzoni. Mi vengono in mente l'Equipe, per esempio, faceva anche i brani dei Beach Boys, certo, eccetera, eccetera. Ma le facevano bene, certo. E comunque in Italia negli anni 60 la musica era di buoni molto livelli. Ben realizzata, certo. C'erano dei grandi maestri tipo Ennio Morricone. Che ha aiutato un sacco di musicisti della RCA. Sì, ma poi anche i vari cantautori tipo Luigi Tenco, esatto. Interpreti come Mina, lo stesso Celentano, era secondo me era un bravissimo. Col Clan aveva fatto delle cose molto interessanti. Celentano. E i brani erano anche quelli che venivano composti, proprio brani italiani, erano interessanti, cioè avevano qualcosa di che ti rimaneva in testa, uh-huh, musicalmente, con delle idee veramente innovative per l'epoca. Ma tu nel 66 sei entrato a far parte di una band che si chiamava La Nuova Generazione. Sì, è stato uno dei primi gruppi con cui ho suonato, La Nuova Generazione. Beh, non eravamo, cioè, eravamo nel 69, uh-huh. E lì suonavo il basso, io ho sempre suonato sia la chitarra che il basso, le prime esperienze così in pubblico le ho fatte come bassista, uh-huh. E poi sono cambiato, cioè, ogni anno cambiavo gruppo. Ah, perfetto. Suonavamo in sala da ballo e io andavo sempre un po' in salita, così per trovare sempre gruppi più affermati, però sempre parlando di ambiente di sala da ballo, che allora era dignitosissimo, anzi era cioè, si suonava esclusivamente in sala da ballo. E facevamo tutte le cover, le canzoni che ci piacevano, cioè nessuno ci veniva a dire fai questa, fai quell'altra. Facevamo proprio, per dirti, nel 70 io suonavo in sala da ballo, facevo roba di Black Sabbath, di Deep Purple, di Grand Funk Railroad, di Jimi Hendrix, dei Led Zeppelin. E la gente ballava con questa musica qua, ballava, si divertiva. Bello, molto positivo secondo me. Sì, certo, allora erano altri tempi. Erano altri tempi, e poi hai inciso anche dei quattro singoli, hai inciso quattro pezzi, di cui due cover dei Beatles, poi un certo Paranoia Dance. Questo è venuto nel 73, 73, sì. Con Le Impressioni, che è stato un altro gruppo di Treviso. Mm. Con cui ho suonato, anche quello era uno dei più importanti, più affermati delle band, sì. della zona chiaramente. Sì, ogni città aveva certo, ogni ho città suonato aveva... anche con i Puppies di Padova, ecco. Prima delle Impressioni ho suonato un anno con i Puppies, te li ricordi? Certo, sì, me li ricordo. Beh, grande Paolo Pozzer alla voce, che è stato il primo emulo di Mick Jagger. È vero, lui proprio era sì, infatti facevamo quasi una tribute band dei Rolling Stones. Loro suonavano tanto Rolling Stones. È positivo, secondo tutte questi modi di suonare in altre band ti hanno cresciuto musicalmente, cosa dici? Vabbè, certo, era una palestra. Suonare in sala da ballo era una palestra, perché avevi 1000 persone tutte le domeniche, e non erano 20 persone, erano 1000 persone. Si andava dai 500 alle 1000 persone a seconda dei posti dove si suonava, quindi avevi davanti tanta gente che era come il tuo primo pubblico. Certo. E era un'esperienza, è stata un'esperienza, sì. Formativa importantissima. Okay. Adesso però ti ascoltiamo qualcosa dal vivo adesso. Ci fai sentire qualcosa, eh? No, mi coglie impreparato. No, vabbè, allora vabbè, facciamo un altro pezzo della scaletta. Hai scelto Valzette, che è una... Vuoi far lavorare, no? sì. È una composizione strumentale. Ecco, mettiamo questo Valzette, che è un inedito, che non è mai stato, come dire, pubblicato. Questa è una specie di demo, di provino, che ho fatto un po' di anni fa. Che tempo, che periodo, te lo ricordi? Ma credo 5-6 anni 5-6 fa, anni dovrebbe fa. Esserci scritto la data. No, la data non l'hai messa, di qualche anno fa è scritto. Sì, ma sarà 6-7 anni adesso fa. Adesso lo sentiamo e poi ne parliamo, perché voglio capire come l'hai realizzato questo inedito, questo strumentale. Okay. Thank you. Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Sono le 21.35, siete sintonizzati su Blu Radio Veneto, come avete poc'anzi sentito, e questa sera c'è un grande artista, Tolo Marton, che ci è venuto a trovare e a proporre la sua musica, e ci sta raccontando un po' la sua storia, la sua biografia, le tue varie esperienze. Ce n'è una che poi, che credo te l'avranno chiesto in 200.000 persone al mondo, ma insomma io sarò un'altra di quelle. Questo contatto, te la faccio subito la domanda: questo, cosa hai provato in quel palco in America a ricevere quel premio dal padre di Jimi Hendrix, Tolo? Difficile da dire. Cioè, quello che ho provato in quei tre secondi in cui mi hanno detto che the winner is all the way from Italy, Tolo Marton, per me è stato come dire, lo sapevo, cioè lo sapevo, no? Sai quando sai una cosa, la sai già da prima. E, nello stesso tempo ho provato una sensazione di disagio, come se fosse, non so, ecco adesso cosa faccio, cioè come affronto come questa situazione, perché era molto importante questo premio. E passato questi 5 secondi ero felicissimo. Beh, immagino. Ma i primi 5 secondi sono stati un po' di disagio e di, anche perché a me non piace tanto essere festeggiato. Sei un po' timido, schivo? No, essere festeggiati, essere al centro dell'attenzione, a volte spesso non è quello proprio per cui sono portato. Cioè, già, io, però se ciò accade, forse ormai mi conosco. Certo, però se ciò accade vuol dire che te lo meriti, giusto? Lo diranno gli altri. Guarda, sì. io posso solo dire che per me la musica è la mia vita, e certo, ci ho dedicato la mia vita. Ed è ci voglio bene alla musica, cioè voglio che stia bene in salute, la musica in generale, no? Per cui faccio il possibile per dare un contributo, perché ciò accada. Come mai tolgo questa puntata americana? Perché questa puntata americana? Perché in Italia c'è stato sono arrivato a un punto anni fa che ho detto devo andarmene via da qui, da questo posto. Devo provare ad andare da un'altra parte, perché qui non riesco ad avere quello che vorrei. Non è un paese, adesso possiamo parlare i soliti discorsi che non c'è molta meritocrazia e queste cose qui. E comunque, per quanto mi riguarda, ogni volta che incontravo delle persone, degli americani che mi sentivano suonare, mi hanno sempre detto: ma dovresti venire in America, dovresti venire in America. E io non ho mai avuto, come dire, la prontezza, la decisione per fare questo grande passo, finché l'ho fatto quando ormai ero anche a una certa età. Non l'ho fatto giovane, a parte la prima volta che sono andato, che avevo 24 anni, con le orme, vabbè, quella era nel 75, ma sì. Poi ci sono tornato solo nel 1989. Quindi sei tornato molti anni dopo. Molti anni dopo. E dopo l'ennesima delusione qui in Italia, per dire, un concorso che io feci in Italia nell'82 nazionale, questo lo posso dire tranquillamente, era truccato. Ah, bene. Ed era un concorso nazionale molto importante. Vinsi per il Veneto solo per acclamazione popolare, perché la giuria era già, avevano già deciso cosa votare. Il secondo gruppo doveva vincere. Certo. Uno della giuria era il manager del secondo gruppo. Vedi casa. poi le finali nazionali a Bologna. Allora tutte le regioni avevano il loro gruppo, il loro rappresentante. Quando io suonai a Bologna col mio gruppo, all'epoca come si chiamava il gruppo, ti ricordi? Che cosa? All'epoca come si chiamava il gruppo che avevi? Ah, beh, io ero Tolo Marton. Ah, Tolo Marton Band. Tolo Marton Band, sì, certo. Avevo già il mio gruppo allora. Okay. quando suonai a Bologna, per farla breve, dopo che avevo già finito di suonare, cioè avevano già suonato anche altri prima di me, certo, è arrivato uno e mi ha detto: ma tu hai suonato già? Sì, ho detto, sono sceso già da mezz'ora che ho finito. Ah, cavolo, non ti ho neanche sentito, io sono della giuria. Perfetto. Ecco, e poi la cosa per finire proprio la ciliegina sulla torta è che la RAI trasmise per televisione in differita, poi magari adesso 2 settimane, un mese dopo, il concorso. Il concorso. Mm. L'unico gruppo, l'unica regione che non si vide in quella trasmissione è stato il Veneto. Perfetto. Quindi prova a pensare. Quindi hai fatto benissimo andare negli Stati Uniti. Io in America ho fatto un concorso, era mondiale e l'ho vinto. Esattamente. Quindi non c'erano le giurie, c'erano le giurie che avevano altre dimensioni. Sì, no, per dirti che l'Italia, purtroppo, mi dispiace dire queste cose, ma ormai lo sappiamo tutti, l'Italia è un paese così, cioè c'ha belle cose, ma molto spesso le cose sono truccate, vanno avanti chi un certo tipo di persone, eccetera. Io non è che mi lamento, non mi sto lamentando, sto prendendo atto. Sono anche contento di essere arrivato a continuare a suonare facendo sempre quello che mi piace. Esattamente, tu è una cosa giusta che bisogna sottolineare, cari ascoltatori. Tolo ha sempre continuato a fare le cose che lui amava e continua a farle. E a 30 anni, quando ho cominciato 30 anni fa e più, era molto difficile suonare quelle che volevi suonare te. Anche adesso. E anche adesso. Anzi, paradossalmente. Cosa. Questo è più difficile. È ancora più difficile adesso, perché cos'è che è cambiato in questi anni? Nella scena qui in Italia è che adesso siamo tornati indietro, il pubblico vuole sentire solo cose che conosce. Esatto, le cosiddette cover. Sì, ma questo è normale, perché siamo tutti fatti così. Anche a me piace sentire le cose che conosco, le cose che mi piacciono, che mi ricordano qualche cosa. Però bisogna fare i conti col fatto che la musica non va avanti. Se tutti ascoltiamo solo le cose che conosciamo, nessuno si inventa più niente, no? Per quello che dico che è difficile, più difficile adesso. Viviamo in un momento di, come dire, di riflusso. 30 anni fa, 40 anni fa non era così. Cioè, volevamo tutti sentire cose nuove. Tutti, c'era questa sintonia tra il pubblico, i musicisti, i discografici. Si creavano le cose, gente come, potrei fare tanti nomi, puoi citare Micocci come discografico, eh? Micocci, quanta gente ha lanciato quelle, adesso, cioè, ha scommesso. Tu parli con qualsiasi giovane che suona, la classica frase ti dirà: se io provo a fare cose mie non vado a suonare da nessuna parte, non mi chiamano, vogliono cover. È vero questo, ma è un gioco perverso, perché bisogna che i musicisti si ribellino a questa cosa qui, sennò bisogna essere in tanti. Sì, chiaro, perché sono i musicisti che hanno il potere, il coltello dalla parte del manico, di cambiare. Se loro scioperano e dicono: no, io basta, non vado più a far cover. Sì, le vado a fare all'inizio per imparare a suonare, però voglio fare cose mie, voglio provare, voglio sperimentare. Vedrai che cambia. Si blocca tutto e si cambia. E andare in America cosa ti ha aperto musicalmente parlando? Oltre al di là di vincere questo premio prestigioso. Guarda, in America io ho avuto tante conferme, prima di tutto. Cioè, tutto quello che avevo ascoltato da casa, da giovane, ho visto che poi non ero così distante da quella dimensione lì. Però ho anche capito altre cose, ad esempio che gli americani sono molto professionisti, e quello che io scambiavo per improvvisazione non è tale. Molto spesso non è improvvisazione. Ah, capito. Io sono cresciuto credendo che bisognasse improvvisare, che quello era lo spirito. Bisognava in palco, spirito, gli assoli, lo spirito hendrixiano, insomma, praticamente. Sì, Hendrix sì. Era lo era lui, ma però perché io mi sono ispirato, sono cresciuto con quella gente lì, però sono pochi, non sono in realtà tanti americani, non improvvisano, sono proprio, imparano una parte, la fanno talmente bene che sembra che la facciano per la prima volta. Ho capito. La fanno così convincente che sembra quasi che la stiano creando al momento. Ho capito. È una cosa interessante questa, molto interessante. Adesso timbriamo il cartellino. Dobbiamo timbrare il cartellino, Paolo. Bisogna fare qualcosina, dai. Allora, quando non sapevo cosa fare, a 14 anni che ho prima preso la mia prima chitarra in mano, non sapevo cosa fare, allora non sapevo dove mettere le dita, allora facevo così. Avevo una chitarra classica, allora cercavo di imitare il suono di una chitarra elettrica suonando qua vicino al ponte. No? Sì, andavo avanti, dopo facevo... Ho deciso di darmi al violoncello. Bene. Sì, perché sono stufo della chitarra. Beh, una chitarra può essere trasformata in violoncello, non c'è mica problema. Sì, ci metti un archetto, cosa dici? Si può farlo? Ma io non ce l'ho l'archetto. Ah, non ce l'hai l'archetto. Oppure al violino. Adesso secondo me si sente la pennata perché sono davanti al microfono. ritornando al momento del pezzo che abbiamo sentito, quello valzetto, quello di io voglio capire, perché con Agostino prima abbiamo parlato, no, ma io voglio sentirlo un po' di più, però sì, parla un momento di valzetto, tu lo stai facendo parlare e poi lui non mi suona, no, eh. No, io volevo invece parlare il problema, ecco, di questa, ecco, canzone qua. Questa canzone qua è importante, quella che avete sentito prima, eccola là. C'ha questo ritornello. Non me la ricordo neanche più. questa valsetta, sì. È una. Intanto il titolo, valsetta, perché è una parola così che mi sono inventato, che ricorda il valzer, un piccolo valzer. Esattamente. Sì, devo dire che me la sono sognata. Io ho sognato una linea di basso. Proprio questa linea di basso. C'è sempre il basso al posto della chitarra, eh? Da questa linea di basso, cos'è che ho fatto? Mi sono alzato, mi sono ricordato la linea di basso e ci ho costruito una melodia. Eccetera. E poi ho aggiunto questo ritornello. Sì, come dicevi tu, potrebbe andare bene per una colonna sonora di un film. Esattamente. Cosa dice Agostino? Andrebbe benissimo, sì, come sono, colonna sonora. Sono assolutamente d'accordo. Ma l'importante è che... Ma lui ha fatto anche delle colonne sonore. Sì, ha fatto delle colonne sonore. No, cioè, non le ho fatte. Cioè, ho fatto la musica per dei film che non esistono ancora. No, per esempio c'è Alpine Valley, che è un brano... Esatto. Molto importante, e che tra l'altro è quello che mi ha permesso di vincere quel concorso. Il concorso dedicato a Hendrix negli Stati Uniti. E questo brano, sì, thank you. questo qua, questo è un brano che tante persone effettivamente mi hanno detto che potrebbe andare bene per una colonna sonora di un film. Non so se avete notato, cari ascoltatori, questo dà la dimensione degli spazi molto grandi, secondo me, questo pezzo qua. È un brano molto esteso. Esteso, sì. Arioso, che dà proprio questa dimensione. Esatto, di allargare gli orizzonti, possiamo dire così, agli anni 70, allargare gli orizzonti. Appunto, proprio così. Può essere suonato da qualsiasi strumento. Questa è una cosa molto positiva. Può essere suonato da qualsiasi... Perché il pezzo precedente l'hai pensato con il basso? Perché l'hai pensato? Precedente? Perché l'hai pensato con il basso? Perché sono andate così le cose. Cioè, io ho sognato una linea di basso. Mentre sognavo, sentivo questo basso. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. E da lì ho detto, senti, questa è una sequenza di basso semplice, però è abbastanza interessante. Anche al Pine Valley me la sono sognata. Sempre con il questo, basso? Questo motivo qui, no, questo proprio mi sono sognato la melodia. Questa melodia me la sono sognata. E ero in America. E sai quando si sogna, fai un bel sogno, dici me lo devo ricordare, se non ti svegli subito e in qualche modo ci ripensi al sogno, te lo dimentichi. Certo, lo dimentichi subito, immediatamente. E io nel sogno ho detto, questa melodia me la devo ricordare. Mi sono svegliato, avevo un Walkman, un registratorino, e con la chitarra spenta di notte l'ho registrato questa melodia. Perfetto. E poi sono tornato a letto e... E poi quando ti sei svegliato hai continuato il discorso. Sì, così. Si fanno le cose. I musicisti, se uno se sogna una melodia, per non farsi scappare la melodia, adesso ci sono i telefonini, ma una volta che c'erano i telefonini cosa mi facevi? Quel block notice? Ero in America con... Meno male che c'era mio amico Oscar Abelli, un batterista di Parma, eravamo nel 93. Sono tutte storie vissute queste, sì, assolutamente vissute. Eravamo lì a cercare di farci ascoltare in Texas, a Austin, e fa: Tolo, prendi il mio Walkman, mi ha dato il Walkman. È stato intelligente, una piccola avventura così americana. E poi il giorno dopo ho sviluppato il brano, mi sono scritto un po' le cose, e la prima volta che l'ho suonato dal vivo era proprio in Texas. Ma come si suona negli Stati Uniti? Eh? Come si suona negli Stati Uniti ora e adesso? Perché insomma, adesso c'è libertà, c'è libertà di improvvisare, come tu hai detto, un'improvvisazione da professionista. Ma sai cos'è la differenza principale che io ho percepito? È che la musica non è un optional, ecco, lì. Come qua. Qui, cioè, lì la musica è la colonna sonora della gente. La gente esce dal lavoro, va nel pub, escono dal 6 di lavoro, vanno magari nel locale, perché si suona alle 7 di sera lì, dalle 7 alle 9, poi dalle 9 e mezza a mezzanotte. Cioè ci sono due tempi. Due tempi d'orario, cioè, prima e dopo. E tu vedi queste persone, per esempio a Austin è probabile che una persona su due, se non è musicista, però ha preso in mano uno strumento o canta, cioè sono tutti che portati per la musica. Quindi loro, appena tu vai a suonare, qualcuno che suona in un palco e fa qualcosa di interessante, proprio. E proprio, soprattutto, o no? Cioè loro capiscono, cioè, se ne rendono conto e lo fanno, ti fanno vedere che hanno capito questa cosa qui. Quindi è una terra dove si percepisce davvero il cosiddetto sogno americano. Non è una cosa dei film, cioè lo senti, ti può succedere qualsiasi cosa. Tipo, ci sono tante coincidenze, tante combinazioni, incontri persone che... Ma perché? Perché loro sono curiosi. Io in tanti anni non ho mai trovato in un locale il cosiddetto talent scout. Quello che va in giro a sentire i musicisti, non vengono i giornalisti, non vengono... Cioè, tu suoni, puoi passare una vita intera senza che ci sia qualcuno addetto ai lavori che gli interessa, che cerca qualcuno. Invece lì mi succedeva spesso che c'era qualcuno: ah, io lavoro per questo giornale, io lavoro per questa etichetta di scuola, prendi il mio biglietto da visita, chiamami. Dopo tanti erano solo gente che voleva farsi vedere, sì, dei, no, magari solo per hobby, sì, lo facevano, certo. Però... non è che, sai com'è, però già questo è un segnale, no? Certo. E che pezzi in America ne avrai scritti qualche pezzo? Non puoi fare qualche pezzo che hai inventato negli Stati Uniti in questo momento? Questo è uno Alpine Valley. L'hai fatto in America? Sì, ce n'è un altro. Ecco, adesso lo sentiamo. Ecco, infatti, io voglio sentire il tolo suonare. No. Che pezzo era? Univibe. No, quello non l'ho messo. Okay. Questo è un brano che bisognerebbe eseguire con un arrangiamento, una band, perché è un brano fatto solo di due accordi, e quindi io l'avevo registrato negli Stati Uniti. Comincia con una chitarra che fa sta melodia con... dedicato a Al Hendrix, il padre di Jimi Hendrix. Certo. C'è la firma, c'è la firma di Al Hendrix. Ce l'abbiamo fotografata, poi, cari ascoltatori, poi vedrete. E questo qua è venuto fuori, sto brano, subito dopo aver vinto il concorso, il giorno dopo. È venuto fuori questa melodia e l'ho dedicata proprio... L'ho chiamata Univibe, che è il nome di un effetto che usava Jimi Hendrix. Univibe è una specie di pedale che produceva un suono tipo un vibrato, un tremolo, quasi un'imitazione di un Leslie. E quindi ho messo insieme Univibe con Al Hendrix per questa canzone. Ma lo sai il padre che gliel'hai dedicata, gliel'hai fatta sentire? Gliel'ho detto, sì. Quella volta, spero, non mi ricordo se gliel'ho detto, ma credo di averglielo detto, mentre mi firmava la chitarra. Senti, un altro big che ci tengo a sapere la tua impressione è Ian Pace, di Papo. Su cosa? Che persona e che effetto ti fa suonare con lui? Perché tu stai collaborando con lui, insomma. Sì, sì. È nata una collaborazione. Ian Pace è un batterista leggendario. Lui lo ascoltavamo tutti quando eravamo più giovani di Purple. Io suonavo una decina di brani di Purple in sala da ballo, quindi il batterista con cui suonavo delle impressioni era Paolo Podda. Era un fanatico di Deep Purple, cioè lui doveva assolutamente suonare i pezzi di Deep Purple. E quando ho conosciuto Ian Pace e ho suonato con lui la prima volta nel 2001, ho detto: mi sembra di essere a casa, perché cioè, è conosco proprio, tutto. Sì, no, è proprio lo stile, che ho ascoltato da certo. giovane, però era lì, era presente e naturalmente molto più, cioè, più the real thing, certo. cioè, proprio il vero, la cosa giusta, no? Quello, è un batterista che non è una rock star, cioè si comporta una persona estremamente semplice e anche disponibile. Mi fa sentire proprio a mio agio quando suoniamo assieme, perché non è che lui dice: cosa facciamo, che pezzi vuoi che facciamo, allora facciamo anche dei brani miei. Lui è disposto a imparare dei anche tuoi. Questa Univire l'ho suonata con lui anche al Pine Valley. Mm. Quindi, come dire, più conosci persone così importanti e più ti accorgi che sono persone molto molto disponibili, non si danno arie, non sono assolutamente, cosa che non succede in Italia, si adattano. Io ho visto in situazioni di backstage quando suoniamo, anche in situazioni che lui probabilmente non è abituato, cioè poco da un punto di vista organizzativo, niente di buono, cioè proprio brutte situazioni, e lui si è sempre adattato, non ha mai avuto problemi. È un batterista che ha creato un suo stile e ha fatto la scuola del rock, insomma, con i Deep Purple. Hai suonato anche col bassista, con Roger Glover, l'anno scorso? Sì. Hai fatto un concerto al Teatro Corso a Mestre, è vero? Sì, abbiamo suonato un paio di volte l'anno scorso al Hard Rock Café di Venezia, il giorno dopo al Teatro Corso di Mestre. Lì Roger Glover, se posso dire, ancora di più rispetto a Ian Paice, Roger Glover, proprio lui è una persona estremamente comunicativa. È come essersi conosciuti da tanto tempo, da cioè la prima volta che abbiamo suonato assieme alle prove per preparare quel concerto, siamo andati avanti 3 ore e dovevamo provare i brani, in realtà abbiamo fatto le jam session continue. E lui, devo dirti una cosa su Roger Glover, lui per tre volte ha detto una frase in inglese di cui io vado fiero, proprio vado fiero, perché lui ha detto Tolo Marton per l'Italia è una come si dice, national treasure, una risorsa nazionale. No, come si dice, non mi viene la parola, comunque letteralmente per l'Italia un tesoro, un punto fermo, qualcosa di questo genere. E l'ha detto in palco l'ha detto ai giornalisti, l'ha detto nelle interviste, pazzesco. Certo, pazzesco. Vuol dire che c'era un feeling totale tra lei. No, vuol dire che sono persone che non hanno paura di esprimere, di trattenersi, di esprimere quello, certo, che pensano. Per me, io l'ho preso magari sarà per anche, non so, è troppo buono, capito? Troppo buono. Però nessuno lo obbliga. Certo, al concerto di Mestre, cosa hai suonato? Ci puoi rifare un pezzo che hai suonato l'anno scorso al concerto con lui? Beh, con Roger abbiamo suonato anche dei brani di Deep Purple, sì, naturalmente. Ma brani tuoi? Brani miei ne abbiamo fatti. Abbiamo fatto questo Back to My Youth, se non mi ricordo male, che era da trio proprio. Go back to my youth, play that same old friend. Go back to my youth, play that same old friend. Back to my youth, put on my old shoes. Back to my youth, talking about my roots. I'll talk to you with this guitar, and you gotta listen to me. Eccetera, poi c'è tutti gli assoli. Eravate in trio, Roger Glover, te, sì. E l'altro, chi c'era il terzo? E l'altro era Andrea De Marchi, il batterista. Il batterista che suona con me, che suoniamo insieme. Alla Cream, praticamente. Alla Cream. Anche abbiamo fatto anche Sunshine of Your Love. Ah, però. Sunshine of Your Love. Ragazzi, questo è Sunshine of Your Love, mica un pezzo da niente. Beh, bellissimo. E poi bellissimo. Naturalmente. Ancora sì. Perché questa non la conosce ovviamente nessuno. Ovviamente se si suona in palco con uno di Purple non è che, cioè, no, non puoi farlo anche fare qualcosa. Non puoi non fare almeno perché è giusto. però ci sono anche i pezzi tuoi importanti. A proposito di pezzi tuoi importanti, ne scegliamo un altro, che è One Sweet Night. Facciamo così, sì. Adesso io sto realizzando un disco nuovo. Questo disco è un disco di passaggio, io definisco un disco di passaggio, si chiamerà Stage List. Sì. E in attesa del disco che sto progettando da molti anni di inediti, questo è un disco che, come dire, di pesca. C'è dentro c'è il repertorio che suoniamo dal vivo, una buona parte del repertorio che suoniamo dal vivo in questi ultimi anni che abbiamo, certo. Perché ogni anno, sai, si cambia anche lo stage list, la set list, cioè certo. la scaletta. La scaletta. Ed è giusto avere anche un documento, un disco che contenga un po' il riassunto di quello che si fa dal vivo. Questo però lo rifai in modo diverso rispetto al 91, quando questo l'hai, all'81 brano, quando l'hai, ecco, pubblicato. Questo è un'anteprima, questo One Sweet Night è un brano che io registrai nel mio secondo disco, che si chiamava Let Me Be, l'album. Esattamente, sì. E c'era questa One Sweet Night che, guarda, te la accenno come un po' più lunga, puoi accennarla un po' più lungamente. Te la accenno com'era, era una ballata caraibica, sì, ah, benissimo. Molto dolce, One Sweet Night. Ok. Ci vorrebbe un suono un po' più leggero, comunque, aspetta. È tutto in diretta. È tutto dal vivo. Stasera abbiamo Tolo Marton qui a Bulle Radio Veneto con Agostino, con Maurizio. Qua le scalette non esistono, non facciamo assolutamente. What car at 3 o'clock this night? I just couldn't sleep. Maybe I slept a little bit last night. I'm talking about dreams. So I went down to the kitchen and took an uncle's seltzer. And I put an old killer's record on just to find the mood for a new rock and roll song. The morning pale light is already coming through my window while an old Elvis 45 is rolling home down Toronto and so high. I spent the night. I spent the night listening to. Ecco, questo è il brano originale, così. C'era una marimba, c'erano delle percussioni. Molto melodico. Adesso io l'ho riarrangiato più, un po' più energetico, più rock. Ma in realtà questo arrangiamento lo pensai già tanti anni fa, però ora lo suono dal vivo, lo suoniamo così. Adesso lo scontiamo. Woke up at 3 o'clock this night. I just couldn't sleep. Maybe I said a little bit last night. I'm talking about dreams. So I went down to the kitchen and took an Alka-Seltzer. Then I put an old killer's record on just to find the mood for a new rock and roll song. The morning pale light is already coming through the window while old Elvis 45 drawing on the church table and so high. I'll spend this night. I'll spend the night listening to these old dusty 45, watching the labels rolling on until the morning light. The music is a good recipe. Touch my heart, it's a kind the glue that doesn't leave me. It's a memory, it's a vision of old-fashioned things. It's a vision of old-fashioned things. Memory of a little kid in a striped t-shirt, sitting down all alone and listening to old rock and roll songs. He wants to grow up, he wants to wear his elder brother's blue jeans, and he's got the American movies right in his mind. That was me, I haven't changed at all. Doing just the same now, a sweet night full of memories. This early morning pale blue light comes in through my window while Diana lets not slide on my record breaker again. Blue Time Live. Blue Time. Live. Senti Tolo, prima che arrivi il momento triste di salutarci, io volevo strapparti una promessa. Siccome tu sei un pozzo senza fondo di avventure, di conoscenze, di aneddoti e quant'altro, ce la facciamo un'altra puntata, magari un po' più lunga, se vuoi, qui a Blu Radio Veneto con te e la tua chitarra? Ci vieni a trovare? Sì, sì, volentieri, grazie. Grazie dell'invito, sì. Grazie, Ci mettiamo, facciamo magari una carrellata più ampia. Magari, più... magari verrò con qualche musicista in più. Certo, anche con quel capotasto. Assolutamente. Sì, perché... della chitarra. A proposito, dimmi, voi non sapete, sì, cos'è successo prima... Io ho portato la chitarra sbagliata, infatti sento che si sta scordando. No, nel senso che l'altro ieri in concerto ho rotto una corda, succede, no? Certo. E ho portato la chitarra con la corda rotta. ho sbagliato, dovevo portare un'altra chitarra e me ne sono accorto adesso. Non ti preoccupare. Quindi abbiamo escogitato un sistema per adoperare la corda rotta e mettere, se no non suonavo. Metto la tappa più bassa. Se no non suonavo. E allora ho preso la corda, l'ho rimessa su, facendo tutto un lavoro incredibile. Però dobbiamo dire una cosa. Il problema cosa. È che adesso non sta accordata. Infatti senti, non sentite che è un po' scordata. Tolo, io volevo chiederti, c'è un ascoltatore che è un discografico che mi dice se sei disponibile tu a suonare in qualche disco di qualche artista. Io sono sempre disponibile a suonare dove mi chiamano, ovviamente tenendo conto che la musica che suono, io suono tante musiche diverse, eccetera, che abbia un minimo di attinenza appunto alle tue sonorità. Sì. No, io mi adatto molto molto bene, non ho grandi problemi, però da un punto di vista artistico sì, questo sì, mm-hmm. Mi interessa che sia... Ne parlerete fra di voi allora. Sì. Dobbiamo sottolineare una cosa, questa chitarra ha 49 anni, è la mitica Stratocaster nera di Tolo, ha 49 anni, sì. Comprata nel 1970, ma era già un po' più vecchiotta. Ecco, avete sentito? Senti che esco là. È già bello anche mentre l'accordo. Silver time, when you were young, you're gonna find a way. I don't know what's in your mind, know you got more to say. Questo è See the Time, un pezzo così appena accennato. Sì, appena accennato. E poi accennarne ancora. No, invece. Dimmi. Non so se voi avete sentito che alla fine del brano che abbiamo ascoltato prima, One Sweet Night, c'è una citazione che fa. Illustre. Facciamo un indovinello ai nostri ascoltatori, che è citazione una, è? Che c'è? È una citazione di una musica di Chopin, una Nina Nanna, La Berceuse, che mi piace tantissimo. E dopo tanto tempo, io questa Berceuse mi è capitato di sentirla dopo tantissimi anni, non mi ricordavo neanche più che esistesse. E sentendola ultimamente ho trovato un'analogia. Con One Sweet Night c'è qualcosa e le ho messe insieme, cioè ci ho fatto questa citazione alla fine proprio per questo motivo. E One Sweet Night è una canzone che ho scritto nell'81 e a cui tengo molto perché è molto personale e racconta un po' una nottata in bianco perché avevo bevuto troppo, così mi sono alzato nel cuore della notte, sai, non sai, mal di testa, e per calmarmi un po', per rilassarmi, sono andato a tirar fuori i miei vecchi 45 giri, che i miei erano dei miei fratelli e sorelle più grandi, che io da piccolo avevo ascoltato tante volte. E li ho messi su nel giradischi, li mettevo e così ho passato questa nottata ascoltando dischi di Elvis Presley, di Polanka. Anche di Everly Brothers. Degli Everly Brothers, sì. Tu dici, cioè io ho letto che tu sapevi a memoria molti di questi pezzi. Sì, qua. Sì. Io lo sapevo. Io li ascoltavo da piccolo, avevo 8-9 anni, quando ancora non sapevo neanche com'era fatto. Cioè, però... la musica, però li ascoltavo in qualche modo, me li cantavo dentro, no? Non mi piacevano tanto. Puoi accennare a un pezzo di Elvis così qualche secondo? Quello che vuoi, a tuo piacimento. You know that can be found, sit home all alone. If you can come around, at least please telephone. Don't be cool. Why don't you be a part? Baby, it's just you, it's my heart. Perfetto. Beh, Elvis durava 2 minuti scarsi, quindi siamo là. Può andare. Possiamo attingere ovunque con te, insomma, Paolo. Sono un jukebox. Ci fai qualcosa di italiano alle orme, te lo chiedo, dai. Qualche un refrain, qualcosa delle orme. Che hai avuto modo di suonare tu? Questo è un arpeggio di chitarra che avevo composto che poi diventò prese il titolo di Lazarin Floyd di Smoke Mazikan. Thank you. la nostra infanzia, la nostra giovinezza, la nostra storia anche radiofonica, Maurizio, queste sono canzoni. Sì, Magica è forse il disco più americano della band. Eccola qua. Amico di amico ieri. Di ieri. Sì. Era parentesi orme, ma tu hai avuto tante altre cose da fare e tante altre cose che racconterai nelle puntate, nella prossima puntata quando sì, verrai. La prossima volta la facciamo più lunga. Però, beh, chiaramente sì. Siamo arrivati a 75. Appunto. E una cosa, adesso in scaletta hai scelto un pezzo dei Beach Boys. Ah sì. Adesso parliamo un momento perché la versione tua è ardita, l'hai definita. Allora, io... Come ti sei... hai deciso di avvicinarti a un classico dei classici? Questo è un classico intanto, dei classici. Intanto, premetto che i brani degli altri, adesso si chiamano cover, vabbè, diciamo i brani che io suono degli altri sono brani che hanno sempre rappresentato qualcosa così della mia vita, la colonna sonora della mia vita. Non suono mai delle cover solo perché sono famose o perché la gente le richiede, ci deve essere un motivo, una ragione, e una di queste è proprio questo brano di Beach Boys che si chiama God Only Knows, che non solo è un brano che mi piaceva tanto da giovane così, ma è un brano stupendo. Brian Wilson ha scritto una cosa simile? È un brano geniale, come erano geniali molti brani degli anni 60, come erano geniali i brani dei Beatles, brevissimo, ma una melodia stupenda e un arrangiamento efficace con delle soluzioni originali che trasformano proprio la melodia in un'altra cosa, perché hanno un'intelligenza nell'arrangiamento, avevano, adesso spiegare tecnicamente, era un geniaccio lui in ogni anche caso. Dire che gli accordi di questa canzone sono, tu fai un re maggiore, di solito c'è il basso in re, invece loro suonano qui i bassi sulle quinte con la, quindi viene fuori I'm in a home with love. The love has a restless about you. You never need to doubt it. I make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. Questa versione classica. Questa è la così fatta con la chitarra, però c'ha questi bassi che danno un colore diverso agli accordi e all'armonia, ed è una genialità. L'ascoltiamo, poi torniamo in studio perché siamo arrivati quasi alla fine. Sì, adesso io ho fatto questo arrangiamento un po' psichedelico, così ve lo faccio, lo sentiamo. Certo, poi, sì, spero che vi piaccia. E poi ci salutiamo con un pezzo dal vivo. Preparati mentalmente che ci fai qualcosa dal vivo come saluto finale. Preparare le mani più che le mani. Good Only Notes. The rock stars above you. You never need to. never be. The light was so gone, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Blue Time Live. Blue Time. Live. Allora, ti porto già, prima di salutarci, un saluto da parte di un discografico che ti dicevo, si chiama Leone Tranquillo, ti fa i suoi più grandi complimenti perché sei bravissimo, non ti conosceva, ti ha scoperto questa sera radiofonicamente, ti contatterà. Grazie Leone. Leone Tranquillo si chiama. Grazie Leone, ciao, buonasera. Vi sentirete per accordi. Tolo, voleva spiegare 30 secondi. Sì, che poi ci salutiamo perché sti cori, come li ha fatti i cori? No, beh, io no, non c'è tempo, no. No, spiega pure come li hai fatti i cori, dei pezzi. I cori li ho fatti con le chitarre. hai fatto un servizio molto pesante, cioè pesante, hai fatto un lavoro molto complesso. Ma io ho immaginato God Only Knows dei Beach Boys se fosse stata suonata da, non so, con un arrangiamento un po' più psichedelico, più rock, più... con un drumming. Ho chiesto al batterista Andrea De Marchi di fare un arrangiamento di batteria molto movimentato sui tamburi, così, una cosa un po' alla Ginger Baker, e con le chitarre un po' psichedeliche, un po' distorte, ma non tanto, con questi tremoli, con questi echi, eccetera. Hai sostituito i cori praticamente. Ho sostituito i cori. Io sì, tra l'altro Andrea De Marchi è il batterista con cui suono da diversi anni. Lui è anche un bravo, oltre ad essere un bravo batterista, è anche lui ha uno studio di incisione che sa adoperare molto bene, molto bravo nel suo lavoro. Poi con la band ho Walter Dalfarra al basso e Simone Bistaffa alle tastiere e Davide Sanson alla chitarra acustica. Vuoi ricordare le date di domani? Posso dire, sì, certo. Visto che domani sera sarò a Woodstock Again and Now, ad Abaddon Terme, che loro fanno questo mega 3 giorni di musica, l'hanno chiamata Woodstock, una riedizione così di Woodstock, un omaggio a Woodstock. Ci saranno tanti tanti musicisti, io suono domani sera verso le 11 di sera, ma loro cominciano già alle 10 alla mattina, bello. Fanno fino alle 3. Finiscono alle 3 di notte, sì. E per l'occasione ho pensato di presentare qualche, appunto, siccome si parla di Woodstock, io me lo ricordo quando uscì il film, ce l'ho ancora presente, mi è piaciuto, farò qualche brano proprio da Woodstock, oltre a dei brani miei, eccetera. Perfetto. Quindi domani sera ad Abano. Domani sera siamo ad Abano e poi ci sono altre date, ci sono, dopo domani sono a Vetulonia, vicino a Grosseto, e qui in zona il 24 luglio suono a Mogliano Veneto ospite di Moca da Tre, che è un gruppo di ragazzi molto in gamba che suonano, che sono molto liberi, molto, molto geniali. E il 28 luglio suono nella mia città, Treviso, a Suoni di Marca. Ah, perfetto. Perfetto. Bene, noi vi salutiamo adesso perché stiamo già andando oltre. C'è Renato, certo, con la sua musica hard rock e suavemente, che è pronto per farvi sentire la sua musica, dicevo. E però prima ci salutiamo con l'ultima canzone, Torlo. Che cosa devo fare? Suonare? Sì. Certo, quello che vuoi. Sapevo che... Quello che vuoi. Tu sai fare tutto, quindi non ci però sono problemi. Prima di partire ricordiamo che io non ci sarò giovedì prossimo, ci sarò martedì con la cantina dei Bardi, sempre con Maurizio, perché poi giovedì insomma, e poi vi aspetto, attenzione, sabato della settimana prossima per una lunghissima diretta qui a Brulee di Veneto. Si comincia alle 9 della mattina e si finisce alle 7 della domenica successiva, quindi è una cosa pazzesca, l'abbiamo studiata, speriamo bene, e quindi è una grande maratona di radio con il sottoscritto, con Agostino, con Maurizio, con Flavio, con Gilles, insomma, Mirko e Francesco. Bene, grazie di cuore a Tolo, ti aspettiamo Tolo per la prossima volta, spero presto, perché dobbiamo fare non un'ora e mezza ma molto ben di più. Mi trasferisco qua, mi fa dormire, ecco, qua, appunto. Direttamente. Buonanotte a tutti, buonasera, buonasera, con l'ultima canzone ancora grazie più, a Tolo Marton. Più che una canzone è un viaggio in treno, visto che adesso me ne devo andare. Ciao, grazie. Ciao, grazie a voi. Grandissimo.